Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mesi fa si parlava, in rapporto a questa sessione di bilancio, di lacrime e sangue, di una situazione che non si sapeva come sarebbe stato possibile affrontare. E abbiamo, io credo, invece una manovra snella che sarà utile per la nostra economia. Una manovra snella e utile, non ci saranno lacrime e sangue, assicurato oggi il Presidente del Consiglio Gentiloni, come avete sentito, a proposito del varo da parte del Consiglio dei Ministri della manovra economica. Naturalmente non sono d'accordo le opposizioni, ce ne occuperemo, andremo più nel dettaglio per capire cosa contiene questa manovra da 20 miliardi. E poi ci sono tante altre cose di cui occuparci, per esempio l'uragano Ophelia, che è stato declassato a tempesta ma sta facendo disastri in Irlanda, e poi sta fomentando incendi in Portogallo, in Spagna, con diverse vittime. Poi invece parleremo anche di una scoperta che sembra che debba rivoluzionare completamente l'astronomia. Hanno detto gli esperti, dopo questa scoperta l'astronomia non è più quella di prima. Diciamo, è una questione complessa, come tutte queste scoperte, dalle onde gravitazionali a qualcosa di simile, questa collisione tra due stelle che avrebbe fatto emergere questa miniera spaziale di oro e di platino. Insomma, detta così sembra una cosa incredibile, però sarà meglio poi collegarci con un esperto che ci spiega l'importanza e soprattutto bene in cosa consista questa rivoluzione. Iniziamo quindi così questa nuova settimana di Effetto Notte. Pagina Facebook del programma, lo sapete, per interagire è qui, pagina Facebook di Effetto Notte, per i vostri commenti, le vostre osservazioni, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Per i distratti lo ricordo, 349-238-6666. Quindi vari argomenti da approfondire con gli ospiti. Prima di tutto però vi racconto che giornata è stata. Il Consiglio dei Ministri vara la manovra, Gentiloni assicura che è snella, utile e senza lacrime e sangue, sgravi per le assunzioni, stop all'IVA, sia il Golden Power su TIM. L'uragano Ophelia, declassato a tempesta, sferza l'Irlanda a 130 km orari, almeno 3 morti, intanto alimenta incendi in Portogallo, dove si registrano 35 morti, e in Spagna, dove se ne contano 4. Malta, uccisa nell'esplosione della sua auto la giornalista maltese che aveva indagato su Malta Files ed era diventata celebre per le sue critiche al governo. Catalogna, il capo del Mossos de Squadra, la polizia catalana, evita il carcere, ma per lui c'è la libertà vigilata. Elezioni politiche in Austria, Kurz trionfa, incarico non prima di venerdì, probabile l'alleanza con l'ultradestra. Il delitto di Iara, i giudici d'appello motivano la sentenza bis che ha confermato l'ergastolo e dicono è assolutamente valida la prova del DNA. Nuova era nell'astronomia, visto nello spazio lo scontro tra due stelle di neutroni, è la miniera di oro e platino. Partiamo quindi dalla manovra economica varata oggi dal Consiglio dei Ministri. Non ci sono lacrime e sangue, come avete sentito, come ha detto il Presidente del Consiglio. Entriamo in una fase nuova, IFA Eco, il Ministro dell'Economia Padoan. Un provvedimento, rivendica il governo, che punta alla crescita ma che si muove nel quadro di finanza pubblica concordato con Bruxelles. Una manovra snella, senza lacrime e sangue, spiega allora il Premier Gentiloni dopo il via libera del Consiglio dei Ministri. Il nostro primo obiettivo era quello di evitare gli aumenti dell'IVA e l'introduzione di nuove tasse, gabelle, accise. Obiettivo che abbiamo raggiunto, impegno che è stato mantenuto. Interventi, dice ancora Gentiloni, per giovani, imprese, famiglie, periferie ed ulteriori anticipi pensionistici. Le risorse sono limitate, avverte il ministro dell'economia Padoan, ma siccome noi riteniamo che siano ben indirizzate, avranno un'efficacia maggiore che rafforzerà la crescita. Non è solo una crescita sostenibile e robusta, ma anche una crescita inclusiva. È una crescita che mobilita risorse per le aree meno avanzate del paese. Capitolo pensioni, rispettiamo la legge in vigore, ribadisce Gentiloni. Quanto al cammino parlamentare, confido nel senso di responsabilità di Camera e Senato. Critiche le opposizioni, impegni già traditi, dicono da MDP. Aspettiamo risposte sull'età pensionabile, commentano i sindacati. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco magari andiamo più nel dettaglio di questa manovra. Intanto spostiamoci all'estero con l'uragano Ophelia, che vi dicevo è stato declassato a tempesta. Sta però mettendo a dura prova l'Irlanda, dopo aver provocato la morte di 31 persone in Portogallo e 4 in Spagna. At this stage, storm Ophelia is a very dangerous storm. The first is to stay indoors. Restate in casa. Ophelia è molto pericolosa. Questa è la raccomandazione del premier irlandese Leo Varadkar di fronte alla furia con cui nelle ultime ore la tempesta si è abbattuta sulle coste dell'isola britannica. Tre già le vittime, tra cui una donna di 70 anni e un uomo rimasti schiacciati nelle loro auto colpite da alberi caduti. Oltre 360.000 le utenze rimaste senza luce, in particolare nelle zone delle città di Cork, Limerick, Tipperary e Galway, per le quali il centro meteorologico irlandese ha emesso un'allerta massima di colore rosso. Chiuse scuole e negozi, i trasporti sono stati bloccati. La tempesta dovrebbe ora dirigersi verso l'Irlanda del Nord, che ha già emesso un'allerta arancione, e quindi, indebolita, toccare il Galles, la Scozia e alcune zone dell'Inghilterra, dove in vigore l'allerta gialla meno severa. Ophelia, purtroppo, lascia dietro di sé un bilancio pesantissimo. In Portogallo, a causa degli incendi alimentati dall'uragano, si contano 32 morti, bilancio purtroppo provvisorio, altri 4 in Spagna. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci collegheremo con l'Irlanda per sapere un po' che cosa succede, con un esperto di cambiamenti climatici, perché sicuramente è una anomalia meteorologica questa. Restiamo all'estero, parliamo di quello che è successo a Malta. La giornalista investigativa 53enne Daphne Caruana Galizia è rimasta uccisa nel pomeriggio nell'isola di Malta dall'esplosione dell'auto in cui si trovava a bordo, a Mosta, una cittadina vicino alla capitale La Valletta. Il premier maltese Muscat ha detto che la causa è stata un'autobomba, condannando l'episodio. La cronista 15 giorni fa aveva sporto denuncia dopo aver ricevuto minacce di morte. Era diventata celebre per le sue critiche al governo e anche a seguito dello scandalo di Malta Files, un'inchiesta internazionale secondo la quale lo Stato nel Mediterraneo fa da base, Malta fa da base pirata per l'evasione fiscale in Unione Europea. Questo attentato è come una sveglia per tutti, spiega Savior Balzan, giornalista investigativo del Times of Malta, intervistato da Raffaella Calandra. Lei è stata per molti anni contro il Partito Socialista. Negli ultimi 12 mesi abbiamo visto degli incidenti con queste bombe in vetture, telefoni per detonare queste bombe. Sono delle sistemi sofisticate. Per il momento tutti questi incidenti, 6 o 7, la polizia maltese non ha trovato i colpevoli. Questo incidente è brutale, è stato un incidente sofisticato, la vettura è stata gettata nel 70 metri, la giornalista Carola Grizia è stata completamente distrutta, una scena macabra, è un gran shock, un grande shock per tutti i giornalisti maltesi. È una cosa terribile proprio a livello europeo e internazionale, no? Questa cosa è successa a Malta. Ancora notizie dall'estero. Catalogna, il tribunale spagnolo ha deciso di lasciare in libertà il capo dei Mossos de Squadra, la polizia catalana, Josep Trapero, con però alcune misure cautelari, tra cui il ritiro del passaporto, l'obbligo di firma ogni 15 giorni, respinta quindi la richiesta di arresto che era stata avanzata dalla procura. Nel frattempo c'è sempre alta tensione per l'avvicinarsi della scadenza dell'ultimatum posto dal premier spagnolo Rajoy al presidente catalano Puigdemont per chiarire se avesse o meno dichiarato l'indipendenza. Puigdemont ha inviato una lettera a Madrid proponendo ancora 2 mesi di dialogo, ma la vice prima ministra spagnola De Santa Maria ha chiarito: giovedì si esaurirà la seconda e ultima scadenza dell'ultimatum, poi sarà attivato l'articolo 155 della Costituzione, cioè quello che leva addirittura l'autonomia alla Catalogna. Elezioni politiche in Austria. Dopo il voto di ieri, il presidente della Repubblica Austriaca Alexander van der Bellen darà l'incarico a Sebastian Kurz, che ha trionfato ieri, incarico di formare il governo, non prima di venerdì prossimo. Comunque poi dovrà scegliere se allearsi con i socialdemocratici o con l'ultradestra. Poi ci colleghiamo con Vienna per capire appunto che aria tira. Stati Uniti, il presidente americano Trump si dice convinto che Cuba sia responsabile per gli attacchi agli ultrasuoni di cui sono state vittime alcuni diplomatici americani. A La Habana lo ha sottolineato lo stesso Trump rispondendo a domande dei giornalisti, dice: credo che Cuba sia responsabile. Politica italiana, il Movimento 5 Stelle chiede l'invio di osservatori dell'OSCE per monitorare il corretto svolgimento delle elezioni regionali in Sicilia, perché, dice Luigi Di Maio, sono a rischio di voto di scambio. E poi per la cronaca italiana, l'omicidio di Yara Gambirasio, è valida la prova del DNA perché non sono stati violati i principi del contraddittorio e delle ragioni difensive riguardo la prova regina che ha portato all'ergastolo Massimo Bossetti per il delitto di Yara Gambirasio. Questo lo scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Brescia nelle motivazioni della sentenza per il muratore di Mapello che ha confermato l'ergastolo. E spiegano i giudici che la finalità dell'aggressione a Yara Gambirasio furono dai contorni sessuali. I giudici fanno riferimento anche alle analisi del computer dell'imputato, dalle quali si deduce un insistente e perdurante interesse per adolescenti in età puberale. Tecnologia, i dati di milioni di persone a rischio a causa di falle di sicurezza che interessano le connessioni Wi-Fi. Nel WPA2, cioè l'algoritmo di crittografia di Wi-Fi, sono state trovate vulnerabilità che possono essere usate dai cybercriminali per rubare informazioni sensibili come carte di credito, password, chat, email, spiega così l'università belga di Kuleven, che ha scoperto le falle al momento non sfruttate, sembrerebbe, per fortuna. C'è spazio anche per parlare di funghi psichedelici. I funghi allucinogeni sembrano essere utili nel trattare la depressione cronica perché è come se resettassero il cervello. Lo hanno verificato i ricercatori dell'Imperial College di Londra, che hanno usato la psilocibina, composto psicoattivo presente nei cosiddetti funghi magici, su un piccolo numero di pazienti su cui le terapie convenzionali per la depressione non avevano funzionato. Nello studio pubblicato sulla rivista Scientific Report si spiega che i benefici sono durati fino a 5 settimane dopo il trattamento. Il composto psichedelico presente nel fungo è come se riprogrammasse o risistemasse l'attività dei circuiti cerebrali che hanno un ruolo chiave nella depressione. I ricercatori invitano però la cautela, visto che sono limitati a un piccolo numero di persone e i risultati, insomma, devono essere ancora controllati. Non è quindi il caso di tentare di automedicarsi, precisano. Per chiudere, la nuova era nell'astronomia, visto nello spazio lo scontro tra due stelle di neutroni, è la miniera di oro e platino, di cui però parleremo più tardi. Direi che quindi il riassunto della giornata si chiude qui, così cominciamo tra poco, dopo la viabilità, ad affrontare gli argomenti, approfondirli con gli ospiti. Per le vostre interazioni, lo sapete, 349-238-6666 è il numero per WhatsApp ed SMS, se no c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi. Giorno e notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, 60 minuti da non perdere, da seguire proprio passo passo per essere aggiornati costantemente su quello che è successo in Italia e all'estero, le cose più importanti, almeno così a fine giornata voi sapete tutto quello che c'è da sapere. Un giorno non potrete dire io non lo sapevo se seguite Effetto Notte. Allora, Roberta Giordano sempre con voi, cominciamo a trattare alcuni temi in particolare. Intanto vi dicevo che è stata respinta la richiesta della procura spagnola di arrestare il capo della polizia catalana, sarà semplicemente in libertà vigilata, però adesso la procura spagnola chiede l'arresto di altri due esponenti della società civile indipendentista, delle organizzazioni indipendentiste, che è Jordi Sánchez e Jordi Sicart, accusati di sedizione per le manifestazioni pacifiche del 20 e 21 ottobre a Barcellona. Vedremo anche come finisce questa richiesta. Intanto ci avviciniamo invece alla politica italiana, prima di tutto, però se non avete acceso puntualmente, qualcuno succede che non risponda subito all'appello alle 21, quindi ricordo comunque quali sono le notizie principali di oggi. Il Consiglio dei Ministri ha varato la manovra, ne parleremo tra pochissimo. L'uragano Ophelia, che sferza l'Irlanda a 130 km orari, ha provocato almeno 3 morti e intanto alimenta gli incendi in Portogallo e Spagna con altre vittime. Malta, uccisa nell'esplosione della sua auto la giornalista maltese che aveva indagato sui Malta Files ed era diventata celebre per le sue critiche al governo. Catalogna, vi ho appena aggiornato sulle ultime notizie. Poi elezioni politiche in Austria, Kurz trionfa, incarico avrà da premier non prima di venerdì, probabile la sua alleanza con l'ultradestra. E poi, a proposito del delitto di Yara, pubblicate le motivazioni dei giudici d'appello che hanno confermato la sentenza all'ergastolo e dicono è valida e granitica la prova del DNA. Nuova era nell'astronomia, visto nello spazio lo scontro tra due stelle di neutroni è la miniera di oro e di platino. C'è un ascoltatore che già scrive: attenzione Roberta a parlare di miniera d'oro spaziale, che qualcuno già sta partendo in elicottero. A proposito di risorse, di miniere, appunto parliamo di manovra economica che il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio oggi da 20 miliardi e qualcosa, e il Presidente De Gentiloni ha introdotto questo testo parlando di una manovra snella, utile e senza lacrime e sangue. Sentiamo che cosa ha detto Gentiloni. Mesi fa si parlava in rapporto a questa sessione di bilancio di lacrime e sangue, di una situazione che non si sapeva come sarebbe stato possibile affrontare. E abbiamo, io credo, invece una manovra snella che sarà utile per la nostra economia. E poi, naturalmente, ha parlato anche il ministro dell'economia Padoan. C'è anche la convinzione che l'Italia è uscita da una fase di crisi finanziaria e di recessione molto importante, la più seria del dopoguerra. Adesso sta chiaramente entrando in una fase nuova in cui bisogna trovare nuove fonti di produttività, da qui lo sforzo per il sostegno degli investimenti. E adesso invece da parte delle opposizioni sentiamo la forgia del Movimento Democratici e Progressisti, cioè i fuoriusciti dal PD. Curioso che Gentiloni faccia appello alla nostra responsabilità dopo aver votato una pessima legge elettorale a colpi di fiducia. Noi non vediamo risposte ancora su sanità, lavoro, pensioni, e questo è il motivo per cui non siamo noi fuori dalla maggioranza, ma siamo stati sbattuti fuori dalla maggioranza. Quindi questo dice la forgia di MDP, che non è d'accordo con questa manovra, con le misure che sono state prese. Adesso tra poco scenderemo più nel dettaglio, ma insomma Gentiloni ha rimarcato che il primo obiettivo era quello di evitare aumenti dell'IVA e l'introduzione di nuove tasse, gabelle, accise. L'impegno dice che è stato mantenuto, e poi ha rimarcato che il secondo obiettivo resta quello di promuovere il lavoro. Tra gli altri cardini ha indicato il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, il rafforzamento delle misure sulla povertà, nuove possibilità per anticipare la pensione. E chiedo alla nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Ciao Betta. Ciao Roberta, buonasera ai radioascoltatori. Senti, quindi questa legge di bilancio dovrebbe iniziare il suo percorso parlamentare iniziando dal Senato il prossimo 20 ottobre, ci confermi? Sì, ma il problema poi che a un certo punto dovrà essere approvata, e subito dopo l'approvazione probabilmente, se è stata già approvata anche la legge elettorale, si andrà a elezioni, Roberta. Quindi è un po' l'ultima manovra economica di questo governo. Però stiamo parlando della primavera, Betta, no? Per le elezioni, non è che c'è stato qualche... Insomma, entro dicembre deve essere approvata e deve essere anche approvata dall'Unione Europea, vediamo che cosa succede. Ricordiamo, una manovra da 20, qualcosa miliardi di euro, però è un sentiero molto stretto in realtà, no? Perché quando si parla di queste cifre tutti quanti immaginano, no? Chissà quante cose si potranno fare, perché 15 miliardi e più sono già spesi per evitare che aumenti l'IVA. Quindi tu capisci che... quest'IVA, accidenti, quanto si porta via. E quindi si porta via quasi tutto, però insomma il governo ha cercato di fare qualcosa, ha cercato anche soprattutto di concentrarsi su quello che sono le assunzioni dei giovani e quindi di fare degli sgravi fiscali per chi assume i giovani, una decontribuzione strutturale del 50%, no? Degli oneri previdenziali per 3 anni. E quindi questo riguarda i giovani fino al 35 anni di età, poi l'età calerà, poi insomma è già una buona percentuale. Ricordiamo che questa misura è incentivata al 100% al sud. Quindi insomma questa secondo me è una... misura molto importante in un momento in cui l'economia sta pian piano riprendendo e si vuole magari favorire l'occupazione e soprattutto quella giovanile che, come sappiamo, è in questo momento quella lì. Quella che soffre di più. Betta, tra l'altro trovo piuttosto bizzarra, interessante, questa norma dentro la manovra salva Tam Tam, cioè la squadra di basket di Castel Volturno che è composta da giovani immigrati non ha potuto giocare nei campionati giovanili. C'è anche questo dentro questa manovra. Per sono queste cose, però diciamo che questa misura è più una misura... forse data da un governo di sinistra che tra le altre cose negli ultimi provvedimenti vorrebbe anche approvare lo ius soli, no? E quindi forse è stata un po' un incentivo, no? Per dire attenzione che ci sono questi ragazzi che vivono con noi e quindi cerchiamo di salvare questa squadra di basket che si chiama Tam Tam. Senti, sì, Betta, ecco, scusa, sì. Prego. No, ricordo che sai che ogni manovra economica, no, viene detta sarà lacrime e sangue, eccetera. Ricordo un attimo il Premier Paolo Gentiloni che oggi ha assicurato che sentito. Non sarà lacrime e sangue. Per una volta abbiamo sentito. Il che non vuol dire che sia vero, però vabbè, noi ci speriamo. Ecco. Hai detto bene, non vuol dire che sia per forza vero. Senti, invece, per quanto riguarda le elezioni in Sicilia, che ricordo ci saranno il prossimo 5 novembre, il Movimento 5 Stelle ha chiesto l'invio di osservatori dell'OSCE, questo organismo europeo per la sicurezza e la cooperazione, eccetera, per monitorare, dice il Movimento 5 Stelle, il corretto svolgimento delle elezioni regionali, perché c'è il rischio di voto di scambio. Allora, il voto di scambio nel sud, diciamo, è purtroppo una prassi, questo bisogna dirlo, no? Senza cercare troppi giri di parole, dici. Sì, troppi giri di parole. Però, insomma, gli osservatori internazionali mi sembra che siano un po' esagerati. Io ricordo che a un certo punto ci fu, non mi ricordo in quale legislatura, eccetera, che furono contestate le schede elettorali, furono ricordate in questo grandissimo deposito che sta alle porte di Roma, a Castelnuovo di Porto, no? E fecero un campionamento tipo del 10% delle schede. Risultò che era stato votato quello che era stato votato. Quindi, secondo me, già dire che ci sono brogli ancor prima che si compiano le elezioni dà anche un'immagine sbagliata nel Movimento 5 Stelle, perché gli elettori potrebbero pensare, allora vabbè, vuol dire che voi state siete certi di perdere, no? Facciamo prima svolgere le elezioni, ricordiamo che in qualsiasi elezione ci sono dei rappresentanti di lista che possono benissimo controllare, e il Movimento 5 Stelle ha diritto di averli e ha il dovere a questo punto di mandarli nei seggi a controllare i seggi. Ma bastiamo noi italiani, perché dobbiamo, basta un militante del Movimento 5 Stelle in un seggio che dice no, tu stai dicendo, stai mettendo per valido questo segno che io non riconosco come valido, io mi oppongo. Ecco, perché bisogna sempre cercare di avere degli osservatori esterni? Noi siamo una repubblica ben consolidata e venuta fuori da una guerra mondiale, dobbiamo essere orgogliosi anche di quello che siamo, e quindi i rappresentanti del Movimento 5 Stelle devono assolutamente stare in tutti i seggi siciliani e controllare loro quello che fanno nei seggi. Senti, dice, poi abbiamo proprio ancora veramente 35 secondi, un ascoltatore dice perché OSCE e non OXE, perché sono due cose diverse. L'OSCE per la sicurezza, partecipano l'Europa, gli Stati Uniti e non solo, e poi invece l'OXE è l'organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico, quindi sono due cose diverse, anche perché insomma se l'OXE controlla le elezioni siciliane si capisce più niente, ecco. No, sarebbe un po' anomalo, quindi che dove vanno a finire i soldi degli elettori, ancora peggio. Allora hanno ragione i 5 Stelle a chiamare gli osservatori internazionali. Stiamo proprio chiudendo, veramente ancora un respiro, l'iter del Rosatellum, diciamo solo che domani dovrebbe sbarcare al Senato la legge elettorale domani che è già passata alla Camera. Sbarca al Senato e sul Rosatellum ci sono a dire due cose fondamentali: i numeri al Senato sono più esigui, il voto sul provvedimento è congiunto a quello della fiducia, mentre la Camera è disgiunto. Quindi che cosa succede? Che se il governo decide di porre la questione questione di fiducia, avremo un voto congiunto e per cui i numeri saranno più esigui. Forza Italia e Lega non parteciperanno al voto, quindi non faranno voti no, usciranno probabilmente dall'aula, però c'è un po' più di suspense, ecco. Vediamo, quindi aspettiamo questo suspense. Cioè non si può fare il voto segreto e poi soprattutto non si può fare il voto sul provvedimento. Il voto di fiducia e quindi Forza Italia e Lega non lo possono votare. Benissimo, Betta. Poi tanto ci aggiorniamo, capiamo domani insomma che indirizzo prende. Grazie alla nostra Betta Fiorito da Roma. Ciao Betta, buona Grazie serata. Grazie a voi. Ciao cara. Ora invece parliamo delle elezioni politiche in Austria, che in realtà in qualche modo ci riguardano. Allora, il risultato definitivo sarà comunicato soltanto giovedì, dopo lo spoglio dei voti per corrispondenza. Hanno vinto i popolari del giovanissimo Sebastian Kurz, il quale dopo il trionfo di ieri può scegliere tra due possibili alleati per la coalizione che dovrà fare per governare, o i socialdemocratici o i nazionalisti. Però mi sembra, caro Vittorio Darold del Sole 24 Ore, ciao Vittorio, da Vienna in questo momento, ciao Vittorio, ciao. Pare che sia più probabile l'alleanza con l'ultradestra, no? Da come stanno le cose. Assolutamente, a urne chiuse, ma con i risultati ancora appunto non ufficiali, perché in Austria si vota con anche per poste, ci sono 900.000 voti appunto postali che stanno conteggiando in questo momento e verranno resi noti solo giovedì. Ma detto questo, è chiaro che il risultato ormai è che il 60% dell'elettorato ha votato tra appunto i popolari e i nazionalisti. Questo è il blocco sociale che risulta vincitore alle elezioni. Quindi è molto probabile una coalizione tra questi due partiti, che spostano decisamente l'asse quindi del paese verso posizioni molto più estreme, soprattutto sui migranti, ma anche in campo economico, con forti riduzioni di tasse, ad esempio, previste appunto dai programmi che ecco, Vittorio, avevano infatti, annunciato. Ti volevo proprio chiedere quali sono stati i cavalli di battaglia di questa campagna elettorale che ha fatto vincere. Ma soprattutto diciamo la sicurezza alle frontiere. Quindi l'Austria ha vissuto nel 2015-2016 la crisi dei migranti che passavano dalla via dei Balcani e poi appunto si dirigevano verso la Germania e la Svezia, ed è stata una situazione molto difficile, in qualche caso anche traumatica per un piccolo paese, vedere passare appunto circa 1 milione di migranti in un paese che ne conta 8 milioni di abitanti complessivamente. Quindi è stata veramente una cosa molto difficile da gestire anche per l'esiguità appunto dei mezzi che erano a disposizione. Più volte, Vittorio, lo ricordo, l'Austria ha minacciato di mettere i carri armati alla frontiera col Brennero, no? Di fare dei blocchi. Che conseguenze potrebbero esserci a questo punto? Sì, praticamente insomma che l'Austria esca da Schengen, cioè dalla libera circolazione, no? Che è uno dei punti fondamentali delle persone, insomma, perché in pratica mettendo i controlli ai confini esce da Schengen, da questo meccanismo che ci consente di passare da un paese all'altro senza esibire i documenti. Questo è un po' il concetto chiave. Ma Vienna sta spostandosi verso quei paesi diciamo orientali, quelli la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, quelli che si chiamano il gruppo di Visegrad, che sono molto ostili ad esempio alle quote sui migranti, cioè non vogliono che vengano distribuiti i migranti fra tutti i paesi, pongono a questo, hanno avuto anche dei giudizi contrari della Corte di giustizia. Diciamo che è un tema molto molto caldo anche nel nostro paese in maniera diversa, perché noi invece ci siamo dati molto da fare, insomma, a livello di solidarietà, di accoglienza senza l'aiuto di questi paesi e di altri, no Vittorio? Sì. Esattamente, questo è il primo punto, proprio che c'è stato questo elemento che ha caratterizzato questa campagna elettorale in maniera quasi ossessiva, e il Partito Popolare, che aveva posizioni molto più centriste, ha cercato di erodere i consensi della destra estrema cavalcando questo tema, e in qualche modo i conservatori e l'estrema destra si sono avvicinati e quindi hanno avuto su questo tema lo stesso tipo di visione. Invece di erodere i voti all'estrema destra, l'estrema destra ha comunque guadagnato 6 punti percentuali, come pure anche i popolari. Quindi il baricentro politico del paese si è spostato decisamente a destra. Questo è un po' l'elemento chiave, soprattutto sulla questione dei migranti. Tira questo vento, capiremo poi che cosa succederà per quanto riguarda l'Italia alle prossime elezioni e la campagna elettorale. Vittorio Darold, grazie da Vienna. Ciao Vittorio. Grazie a voi. Ciao Vittorio, ci fermiamo, ci prendiamo questa pausa, così intanto voi con le vostre riflessioni potete scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, e poi ci sono tanti altri argomenti. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando in questo momento Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora tutte le notizie, il filo delle notizie che vi sto raccontando. Tra pochissimo parleremo di spazio, di questa scoperta che renderebbe l'astronomia ormai diversa, completamente rivoluzionata dal passato. Però vi aggiorno anche su una notizia che riguarda la Catalogna. Allora, abbiamo detto che mentre sale la tensione per questo ultimatum che sta per scadere per il presidente catalano Puigdemont, dato da Madrid, cioè deve chiarire se se ha intenzione o no di dichiarare l'indipendenza, ed era stato oggi deciso che di respingere la richiesta di arrestare il capo della polizia catalana. Adesso invece sono stati arrestati due presidenti delle grandi organizzazioni indipendentiste della società civile catalana. Sono Jordi Sánchez e Jordi Cuixart, accusati di sedizione per le manifestazioni pacifiche a Barcellona il 20 e il 21 settembre, così riferisce TV3, la TV spagnola. Quindi insomma, diciamo che la situazione diventa sempre più esacerbata, sempre più tesa. Intanto vi ricordo velocemente anche le altre notizie, a parte la Catalogna. Abbiamo parlato della manovra economica da 20 miliardi e qualcosa varata oggi dal Consiglio dei Ministri, con sgravi e assunzioni, stop all'IVA. L'uragano Ophelia, che è stato declassato a tempesta ma sferza l'Irlanda a 130 km orari, almeno 3 morti, e anche in Portogallo e Spagna sta alimentando incendi e quindi causando vittime. Malta, uccisa nell'esplosione della sua auto la giornalista maltese che aveva indagato su Malta Files ed era diventata celebre per le critiche al governo. E poi parleremo anche, abbiamo appena parlato delle elezioni politiche in Austria, ora spazio all'astronomia. L'astronomia, diciamo che oggi, da oggi non è più la stessa, secondo gli esperti. Questo grazie alla cattura del segnale generato dalla fusione di due stelle di neutroni, così dense da costituire uno stato estremo della materia. Addirittura per la prima volta è stata osservata una fabbrica di elementi pesanti come oro e platino. Tutto questo è stato ascoltato e visto attraverso i rilevatori di onde gravitazionali LIGO e Virgo e 70 telescopi da terra e spaziali. Un ruolo cruciale è stato giocato dall'Italia in questo, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. I risultati sono stati considerati di portata storica, presentati oggi a Roma. Allora, coinvolgo immediatamente Paolo D'Avanzo, che è ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e autore con Elena Plan dell'articolo pubblicato sulla rivista Nature. D'Avanzo, buonasera. D'Avanzo, senta, quando noi assistiamo alla presentazione, alla pubblicazione di queste scoperte, leggiamo svolta storica, rivoluzione assoluta, eccetera, eccetera, ci esaltiamo, no? E vediamo certe immagini così dello spazio e guardiamo verso il cielo con grande ammirazione, immaginiamo la grandezza di questa scoperta, però devo dire, da comuni mortali ci capiamo poco. Ci spiega lei, D'Avanzo, esattamente? Allora, guardi, l'entusiasmo è assolutamente condiviso, perché anche noi che facciamo queste cose per mestiere, devo dire che... No, poi questo caso in particolare, le cose sono proprio andate bene. Io provo un attimo a spiegarvi, dovete pensare a questa cosa qui. Allora, noi era il 17 di agosto quando è successa questa cosa, mentre magari uno può immaginare come un periodo tranquillo. Gli interferometri LIGO e Virgo erano mesi che stavano raccogliendo dati, gli interferometri LIGO che sono negli Stati Uniti. L'interferometro Virgo era entrato in funzione al 100%, che si trova in Italia, l'interferometro Virgo, dal 1 di agosto, e il 25 agosto era previsto che finissero la raccolta di dati per poi riprenderla un anno dopo. Una cosa assolutamente tutta prevista, avevamo già lavorato su tante cose, ci sono già stati diversi annunci di rilevamento di onde gravitazionali, ne avrete anche parlato sulla stampa, ma erano sempre stati dovuti, una cosa pazzesca comunque, allo scontro, alla fusione di due buchi neri. Allora, il fatto di due buchi neri che si scontrino, che emettano onde gravitazionali, è una meravigliosa conferma della relatività di Einstein. Infatti è stata data ampia eco e a inizio ottobre è stato assegnato il premio Nobel per la fisica per queste scoperte, e quindi è una cosa importantissima. La cosa in più che c'è stata al 17 di agosto, un attimo prima che chiudessero i battenti, come previsto, per poi riaprire un anno dopo, è stato che per la prima volta sono state osservate onde gravitazionali dalla fusione, dallo scontro, dalla coalescenza di due stelle di neutroni. E questa cosa qui, per noi astronomi, astrofisici, è una cosa estremamente importante, perché il buco nero comunque un oggetto astrofisico, per definizione non emette luce, è nero, e quindi se ne mettiamo insieme due, se ne scontrano due, comunque non ci sarà emissione di luce. Quindi noi astronomi, quando i colleghi gravitazionali ci dicevano là nel cielo si sono scontrati due buchi neri, puntavamo i nostri telescopi perché la natura può sempre stupirci, non vedevamo nulla e questo era ragionevolmente atteso. Quando il 17 agosto ci hanno detto guardate che in quella direzione di cielo si sono scontrate due stelle di neutroni, per noi è cambiato tutto, perché sapevamo che in quel caso era ragionevole aspettarsi che venisse emessa anche della luce, della radiazione elettromagnetica. Grazie al fatto che Virgo era operativo, tre interferometri hanno triangolato bene il segnale e ci hanno potuto dire una regione di cielo relativamente precisa dalla quale veniva il segnale gravitazionale. Noi abbiamo nel giro questa allerta è arrivata a noi, ci arriva sui telefoni cellulari, siamo sempre allerta per questi fenomeni esplosivi nell'universo. E quindi è arrivato alle 2 del pomeriggio ora italiana, di lì a un po' di ore tutto il pomeriggio a pianificare le osservazioni, come si è fatto buio in Cile, perché questa porzione di cielo si vede bene dall'emisfero sud, noi abbiamo diversi telescopi, ce n'è uno tutto italiano che possiamo controllare remotamente, lo abbiamo puntato e abbiamo visto la luce emessa da questo sistema, l'abbiamo trovata, non è stato facile, abbiamo dovuto scandagliare tutta quest'area di cielo, un po' come cercare un ago in un pagliaio, ecco, dovete immaginarvi come il perdere qualcosa per la strada e dove andate a cercarlo in una strada buia, sotto i lampioni, no? Dove c'è più speranza di trovarlo. Ecco, noi avevamo questa grande area di cielo, siamo andati a cercare, grazie ai cataloghi, le galassie che si trovavano in quell'area di cielo, era ragionevole aspettarsi che uno scontro del genere avvenisse in una galassia esterna alla nostra, ne abbiamo puntate una alla volta con tanta santa pazienza, finché non abbiamo trovata una dove si era accesa una nuova stella, dove si era accesa una nuova luce. Professor D'Avanzo, ecco, questa fabbrica di elementi pesanti come oro e platino, i ricercatori d'oro subito si vedono illuminare i loro occhi, ma è una cosa concreta? Cioè, si parla è, una cosa è una cosa concreta nel senso che noi l'abbiamo trovata, e quando l'abbiamo trovata abbiamo potuto studiarlo. La cosa importante di poter vedere questa luce, che poi una volta che uno l'ha identificata è lì, viene da quel puntino luminoso lì, poi può studiarla con tutta la strumentazione che ha a disposizione. E questa strumentazione che abbiamo dispiegato, tutto quello che avevamo come comunità italiana astrofisica, ci ha permesso di andare a vedere, a studiare la composizione degli elementi che si sono liberati in seguito a questo scontro. Abbiamo avuto l'evidenza che effettivamente quando si scontrano due stelle di neutroni si formano i cosiddetti elementi pesanti, sono quelli che sulla tavola periodica sono più pesanti del ferro. Il piombo è un esempio, ma anche l'oro e il platino sono un esempio. Noi sappiamo che questi elementi pesanti sulla nostra Terra ci sono, noi sappiamo che c'è il piombo, che c'è l'oro, che c'è il platino, che ci sono metalli pesanti. La domanda che ci facciamo noi come astrofisici, spaccano la Terra e li trovano questi elementi, perfetto. Noi astrofisici ci domandiamo dove si sono formati. Ecco, fino al ferro le cose sono facili, poi relativamente. Capire gli altri un po' più complicati. Oltre era complicato, finché non abbiamo visto questa cosa. Ecco, dobbiamo lasciarci, professor D'Avanzo, mi rendo conto che sicuramente è una cosa enorme, però molto più enorme di noi che stiamo ascoltando, diventa comunque complicata, ma la ringrazio, professore, di aver sentito soprattutto il suo entusiasmo. Grazie Paolo D'Avanzo, grazie professore. Buonasera, grazie a voi. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Allora, abbiamo appena parlato di questa scoperta astrofisica eccezionale, poi dalla Catalogna vi ho dato gli aggiornamenti, sono stati arrestati due presidenti delle grandi organizzazioni indipendentiste catalane, sono stati arrestati, accusati di sedizione per le manifestazioni pacifiche di Barcellona il 20 e 21 settembre, e adesso invece parliamo dell'uragano Ophelia, che è piombato sull'Irlanda, ha provocato almeno 3 vittime, è stato declassato a tempesta tropicale, però sta soffiando a 130 km orari, per cui sono chiuse in Irlanda scuole, università, negozi, bus e tram bloccati. Ma ce lo racconta Maurizio Pittau, che è direttore e conduttore di Radio Dublino. Buonasera Maurizio. Buonasera a voi, buonasera. Quindi situazione complicatissima, leggevo di migliaia e migliaia di persone senza corrente elettrica, senza luce. Come state vivendo? Io per fortuna ho luce, acqua e telefono, insomma, però la situazione è abbastanza precaria, nel senso che quasi 500.000 persone su 4.000 abitanti di Irlanda non hanno corrente elettrica, i trasporti sono fermi, le scuole appunto chiuse, i negozi chiusi, aeroporti chiusi, quindi c'è l'uragano sta andando via, però c'è ancora una situazione di Maurizio, ti sentiamo male, non so se è il telefono. ci stavi dicendo appunto che è tutto chiuso, anche gli aeroporti, e che il premier irlandese ha detto restate in casa, no? Ha lanciato questo appello. L'allarme è dato da arancione rosso e quindi è stato richiesto da casa, chiusura di tutti gli uffici, scuole, eccetera. E quindi la situazione qua è abbastanza surreale, è come se fosse caduta una bomba atomica. Nessuno, come se fosse esplosa una bomba atomica, dice, una specie di day after, sembra. Tutti sono dentro casa, non sono macchine in giro, non sono trasporti pubblici, c'è un vento fortissimo che ancora soffia, tutti stiamo dentro casa, guardiamo dalle finestre, sperando che passi più presto. Tu riesci a lavorare in radio o no, Maurizio? Quindi Oggi non c'è la radio, per fortuna per me, so che i miei colleghi hanno avuto difficoltà ad andare oggi, quindi anche molte programmazioni sono andate cancellate oggi per l'uragano. Maurizio, speriamo che nei prossimi giorni, insomma, migliorino le prossime ore il più possibile la situazione e si indebolisca questa tempesta. Intanto ti ringrazio, Maurizio, magari ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Ciao Maurizio Pittau, ricordo, direttore di Radio Dublino. Invece coinvolgo Antonio Navarra, che è presidente del Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Professor Navarra, buonasera. È un'anomalia, come mai ha raggiunto poi un uragano che raggiunge l'Europa? Ma sì, è un evento abbastanza raro, ma non incredibile. Gli uragani tropicali nascono nella zona equatoriale dell'Oceano Atlantico, dove soffia un vento più o meno costante verso occidente, quindi dall'Africa si spostano verso le Americhe. In genere rimangono confinati in questa specie di, come dice, nursery di tempeste nella zona equatoriale, e rimanendo sull'acqua calda diventano sempre più energetici e crescono. Quando arrivano sui Caraibi hanno raggiunto l'adolescenza, e quindi cominciano a diventare più coraggiosi, e a quel punto hanno abbastanza forza per cominciare a fare una curva verso nord, che è la traiettoria tipica, l'abbiamo vista quest'estate, tutti e due gli uragani che hanno colpito gli Stati Uniti sono nati così e poi sono andati verso nord curvando e andando verso nord. In realtà è l'inizio della fine, perché abbandonano le acque calde equatoriali, si trovano su acque molto più fredde, quindi perdono la loro fonte di energia e inevitabilmente cominciano a indebolirsi, o addirittura arrivano sulla terra, dove veramente perdono si accasciano forza. Per fortuna, professor Navarra, ma alcuni ascoltatori si chiedono: ma sono i cambiamenti climatici, saremo costretti a trovarceli più spesso tra i piedi, questi uragani? Diciamo che la situazione di questi fenomeni chiedono una precisione dei modelli, numerici con cui facciamo gli studi dei cambiamenti climatici, che è al limite della nostra capacità. Prima si parlava di astrofisica, per noi questi modelli sono come telescopi, e sono telescopi che ci permettono di vedere dentro il clima della Terra. In questo momento noi gli uragani riusciamo appena a vederli. In queste condizioni le indicazioni che abbiamo da questi studi sono che il cambiamento climatico in realtà forse riduce il numero degli uragani tropicali, ma ne aumenta l'intensità. Ah, li riduce come numero, ma ne aumenta l'intensità, il cambiamento climatico. Sì, per un bilancio di effetti diversi, l'effetto netto è questo. Però, come dicevo, occorrono i telescopi più precisi, occorre la prossima generazione di modelli che ci permetteranno di descriverli in maniera più accurata, e quindi potremo approfondire questa affermazione e verificarla in maniera definitiva. Bene, grazie professore Antonio Navarra. Prego. Grazie. Arrivederci, grazie a voi. Grazie. Buonasera. Buona serata. Ci dobbiamo fermare, e abbiamo esaurito il tempo, poi ritorno brevemente alle 22 a ricordarvi i titoli principali.